Coming Song, seconda puntata, secondo appuntamento, oggi martedì 7 novembre. Sì, ce la possiamo fare. Siamo, Mister Pink, ce la puoi fare. Siamo con il nostro consueto ritardo, ma solo di 18 minuti, sono le 20:18. Sono stati sempre meno. Sempre meno. Arriveremo a un punto in cui cominceremo alle 8, sarà la fine del mondo probabilmente. E, oggi siamo solo in due. Siamo solo in due, sì. Una versione. Questa trasmissione andrà in onda in forma ridotta a causa dello sciopero del personale. A causa dello sciopero di Mr. Blonde, che salutiamo. Salutiamo ovviamente, e che tornerà dalla prossima puntata. Ebbene, l'altra volta non ci siamo dimenticati di dire di parlare della nostra meravigliosa sigla di apertura. Sì, infatti, perché eravamo emozionati così dalla prima puntata. Soprattutto per i più giovani, perché questa era la sigla della Rai, di Rai 1, di Lunedì Film, che in prima serata, erano le 8:30. Esatto, all'epoca, sì. Sì. Introduceva il filmone del lunedì sera. Esatto, e c'era, per chi se lo ricorda, per chi non c'era glielo diciamo, c'era appunto su questo tema, che poi è Dalla, no? Se non sì, mi sbaglio. È Dalla insieme agli Stadio. Esatto, volteggiava questo gabbiano, questa colomba fatta di celluloide, cioè proprio un disegno, una pellicola che prendeva la forma di un volatile e volava, insomma, questo a noi ci è rimasto impresso, a noi un po' più anziani. Nostalgici. Quindi prima dei bellissimi, di Rete 4, anche quelli comunque, io ci puntavo perché c'hanno un bel pezzone, anche quelli sotto, ma ne parleremo un'altra volta. Quella era la domenica. Sì. C'era un pezzo di Sheryl Crow, se non mi sbaglio, Few Makes You Happy, molto bello, però era già dopo, insomma, lì si parla già ancora, insomma, prima di Netflix, prima di tutta questa roba on demand, c'era la vecchia Rai che passava i filmoni, e questa era la così. E oggi Amarcord, così siamo un po' in spirito Amarcord, vero, se non sbaglio. Sì, perché è anche una puntata, diciamo, un po' nostalgica, sì. Non nel senso politico, no. Nel senso del passato. Nel senso del passato, perché oggi ci occupiamo di radio, di film alla radio, radio nei film, e vi diciamo già che è un dittico, questa è la prima parte, insomma, perché è un argomento molto vasto e che a noi piace molto, ovviamente. Quindi, per omaggiare la nostra fantastica Radio Wombat, abbiamo scelto così di partire subito con questo argomento, che appunto è molto molto vasto, e perché che se ne possa pensare, i collegamenti tra la radio e il cinema, tra il cinema e la radio, sono molti. Sì, anche nella nostra, diciamo, nostra cinematografia italiana. Anche, no? Nella nostra, lo vedremo poi più nella seconda puntata, esempi. Sì, ci sono, anche perché l'Italia è stata, tra l'altro, come di sicuro tutti sapete, insomma, ha avuto tanti, negli anni 70 ci sono state tante esperienze, insomma, delle prime radio libere, cioè, insomma, comportata più o meno politica, insomma, i film, e che poi sono proseguiti ovviamente fino a tutte quelle che conosciamo oggi e di cui noi ci vantiamo di fare parte. Ma questa è un'altra storia, più per la, appunto, mi dicevo, più per la seconda parte di questo argomento, perché oggi parliamo un po' delle origini, quindi dei film che nonostante siano stati fatti in tempi, insomma, più moderni, però si rivolgono al passato, cioè alla radio come memoria, alla radio come così, senso nostalgico, e per dare, più che altro usano la radio per dare un immaginario di un'epoca ben precisa, insomma, di certi anni. Però prima di tutto ricordiamoci, ce lo scordiamo, ce lo siamo scordati, dei nostri contatti. I nostri contatti, ovviamente, il nostro sito Radio il nostro sito wombat.noblogs.org. Sì. Twitter Radio Wombat Firenze, Radio Wombat Fi, facebook.com/radio-wombat-Firenze. E la nostra casella di posta, posta wombat @insiberia.net, dove potete scrivere, esatto, e scriverci quello che volete, soprattutto i complimenti, ecco. Però insomma, se proprio avete delle critiche, non so come, complimenti per la trasmissione, esatto, scriveteci anche se ci sono degli argomenti che vi interessano, magari, che ne so, non ci sono venuti in mente, li possiamo anche trattare. Quindi signor Mr. Allora, Pink, partiamo io partirei un po', ecco, dalle origini. Con un'introduzione. Sì. E possiamo citare questo saggio che abbiamo trovato? Sì, possiamo citare. Abbiamo trovato un saggio interessante, che in realtà è un libro che è stato pubblicato un po' di tempo fa, e che appunto, quando il cinema parla di radio, di questa raccontati da questa giornalista Silvia Venturi, che ha scritto proprio un libro sul rapporto tra la radio e il cinema. Ne sono stati scritti tanti, anche magari anche meglio di questi, però insomma, questo è La radio nel cinema, fenomenologia del mezzo radiofonico sul grande schermo attraverso 10 radio movies. Lei prende in esame 10 film che parlano di radio e ne fa una critica. Credo che sia un libro carino, edito editrice Cinetecnica, Silvia Venturi. Comunque è interessante, perché lei nel libro fa un po' un excursus e ci racconta che appunto non di rado il cinema e la radio sono considerati spesso due mondi contrapposti, no? Inconciliabili. Il primo, che basa tutta la sua forza sull'immagine, quindi sulla resa della realtà o della fantasia, insomma dipende dai generi, attraverso l'immagine, e quindi giovandosi di uno schermo e negli ultimi anni di più dispositivi, no? Mentre la radio chiaramente si concentra sulla voce, sulla parola, e dovendo far fronte appunto col parlato all'assenza dell'immagine, che è un limite ma anche una forza. Soprattutto vedremo poi in alcuni film ce lo fanno proprio vedere bene come la radio aveva una forza, all'inizio aveva ancora più forza del cinema ad influenzare, proprio perché era molto più diffusa. E quindi di restituire un immaginario molto forte, proprio perché non c'era la visione, la vista non era il senso utilizzato, ma l'ascolto, e quindi sì, paradossalmente si sviluppava ancora di più la capacità dell'immaginazione, cioè si spingeva sulla capacità dell'ascoltatore di immaginarsi. È un meccanismo piuttosto potente, lo vedremo poi, molti film lo rappresentano bene. Nonostante il loro essere due mondi così lontani, radio e cinema hanno in realtà molto in comune, e questo è dimostrato anche dai numerosi film dedicati alla radiofonia. Il primo punto di contatto tra cinema e radio è sicuramente l'anno di nascita, cioè il 1895, perché proprio mentre i fratelli Lumière sconvolgevano gli avventori del Grand Café des Capucines a Parigi, proiettando i loro primi cortometraggi, il 21enne Guglielmo Marconi trasmetteva un segnale in codice Morse a circa 2 chilometri di distanza dalla stazione di emissione. Nello stesso anno Nikola Tesla riusciva ad inviare segnali Morse tra due punti distanti ben 50 km. Chiaramente non si trattava ancora di vere e proprie trasmissioni radiofoniche come noi le intendiamo, per cui bisognerà aspettare ancora qualche anno per assistere per esempio al primo messaggio vocale trasmesso via etere dal canadese Reginald Fessenden, ma già agli albori della Belle Époque, diciamo, facevano la prima comparsa questi due grandi mass media. Quindi ecco, hanno in comune molto, perché nascono nello stesso momento. Insieme, ovviamente, sia cinema che radio influenzeranno profondamente la storia del XX secolo. All'inizio forse più la radio, perché chiaramente c'è una diffusione maggiore, va nelle case, quindi ovviamente... Cioè, era, diciamo, al posto della televisione. Prima di tutto, no? Il cinema ci metterà un po' di più, anche perché chiaramente prevede che lo spettatore vada al cinema, quindi c'è un moto al luogo, ci deve essere uno spostamento, non tutti se lo potevano permettere, non in tutti i paesi c'era. E poi si doveva pagare. Si doveva pagare, è vero che la radio la compravi, però la compravi una volta. In più la produzione cinematografica ci ha messo di più a svilupparsi, chiaramente quella radiofonica ogni paese aveva, no? Appunto la BBC in Inghilterra nasce come radio, come radio, poi diventa, certo, televisione. Sì, e ora, facendo una piccola parentesi, anche il connubio tra teatro e radio, esatto, tra lo vedremo letteratura poi, e radio, comunque i famosi radiodrammi. Chiaro. Diversi, vari paesi in maniera diversa, sì, però diversi artisti, anche ora mi viene in mente solo Samuel Beckett ha scritto, esatto, dei radiodrammi, certo, soprattutto in Inghilterra, ma anche in Germania e in America, lo vedremo con Orson Welles in particolare, che portò proprio il suo progetto del Mercury Theater alla radio, alla RKO. Non scordiamoci che appunto la casa di produzione RKO era inizialmente aveva la radio inizialmente, no? Poi divenne produzione cinematografica, è rimasto poi anche dopo quando era, esatto, è rimasta l'antenna. È bellissimo. Bellissimo, infatti, perché è questo, cioè nascevano prima così, poi alcuni si sono sviluppati come, e poi come televisivi, che poi la televisione arriverà e seppellirà tutto, radio e cinema. Ecco, però prima della televisione c'era la radio, c'è qualcosa di sottile, scrive appunto questa giornalista, che unisce radio e cinema, un insieme di coincidenze storiche e di rapporti di forza che nel corso degli anni hanno unito questi due media così diversi eppure così vicini. Come vi dicevo, appunto, ci sono molti film che hanno celebrato questo rapporto, appunto, e che hanno smontato, cioè che hanno cercato di riaffermare l'equilibrio tra i due mondi, no? Che tutti pensano che il cinema sia sempre stato più potente, perché ora lo è, ma di fatto all'inizio non era così. E ci sono proprio degli autori che hanno voluto rappresentare attraverso il cinema la memoria, la propria memoria, la memoria magari del loro paese, del loro contesto, del modo in cui erano cresciuti attraverso la radio. Ecco, per esempio, Woody Allen, Oliver Stone, Altman, no? Cercano di portare sullo schermo la magia che da sempre per loro la radio aveva rappresentato, perché erano cresciuti con la radio, e di dimostrare che la radio appunto non era un po' un figlio di un dio minore, ma anzi all'inizio era proprio ancora più importante. Vedremo diversi film su questi argomenti, ma direi che prima di tutti i film, forse quello che tutti conoscono più o meno e tutti si ricordano, e che è l'esempio che dimostra quanto la radio fosse importante, viene proprio da un regista, da quello che sarà forse uno dei maggiori registi della storia del cinema, e di sicuro che ha influenzato tutto insomma, il cinema in generale, che è Orson Welles. Orson Welles aveva inizialmente un progetto teatrale, appunto, nell'America di Roosevelt si concedeva, era stato uno dei pochi periodi in cui le arti hanno prosperato in senso un po' più sociale, diciamo, per tutti, e Welles aveva questo programma teatrale, portava avanti questo programma teatrale al Mercury Theatre di New York, in cui rivisitava molti classici della storia, Shakespeare piuttosto che altre pièce, facendo partecipare appunto anche attori di colore, cercando di, insomma, di usare il teatro a scopo sociale. Lui però appunto lavorava per la RKO, e non mi ricordo l'anno, mi sfugge in questo momento, però alla vigilia, mi sembra, di Halloween, quindi a ottobre, dell'anno, Domini, no. Ce lo siamo perso. Io credo a fine anni 40. Sì, mi sembra 30, 39, 30 ore. Addirittura? Sì, mi sembra, ora vorrei dire una castroneria, ma insomma, fece questo esperimento, lesse alla radio, in realtà inizialmente lui dice che non l'aveva fatta apposta, cioè leggeva alla radio, appunto, tipo radiodramma, La guerra dei mondi, il famoso, un radiodramma tratto dalla guerra dei mondi, e la gente pensò che stesse succedendo veramente, cioè che fosse una cronaca, forse qualcuno riconobbe il testo di Welles, ma in realtà molti credettero che stesse avvenendo, è rimasta celeberrima, no? Un po' come il treno dei fratelli Lumière, che esatto, si narra che la gente pensava sì, che il treno sfondasse lo veramente schermo. Esatto, perché proprio agli albori di certi media, no? Di certe tecniche, si deve immaginare nel contesto storico di, appunto, delle persone che non le conoscevano e che quindi prendevano soprattutto perché poi la radio era stata fino a un certo punto notiziario fondamentalmente, quindi prima di diventare intrattenimento. Sì, e quindi tutto quello che passava alla radio era la verità, come esatto. Ora, come è sempre stato con la televisione, no? Esatto, esatto. Per cui la gente, insomma, lo prese per vero, e lui alla fine se la rigiocò così, non so se veramente voleva partire così, però alla fine disse sì, ho fatto lo scherzone, però dimostrò a tutti quanto peso aveva quanto la gente ci credeva effettivamente. Noi abbiamo la clip, sì. Sì, che era il 30 ottobre del 38, avevo detto 38, bene, sì, negli studi della CBS, interpretato da Orson Welles, ed era tratto dall'omonimo del romanzo di fantascienza di Herbert George Wells, per l'appunto, che si pronuncia uguale a Orson Welles, però era chiaramente un grande scrittore, ed è rimasto famoso per aver scatenato il panico descrivendo appunto un'invasione aliena. Ladies and gentlemen, am I on? Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that joins Mr. Wilmer's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. The more state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. Can't quite see who. Oh, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now they've parted, and the professor moves around one side, studying the object while the captain and two policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole. Flag of truce. If those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute. Something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field caught up by the woods, as far as the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Sì, ecco, questo era un estratto ovviamente in originale, il nostro buon Mr. Pink ci ha fornito, perché chiaramente non è che erano tutti scemi, cioè l'adattamento del romanzo simulava effettivamente un notiziario speciale che a tratti si inseriva sopra gli altri programmi del palinsesto radiofonico per fornire aggiornamenti sull'atterraggio di bellicose astronavi marziane, in particolare nella località di Grover Mill, in New Jersey. Quindi non è che erano proprio scemi, cioè nel senso non è che aveva detto ora vi leggo il romanzo, no, lui l'aveva riadattato, aveva preso delle parti e l'aveva messe come... l'aveva inserata, l'aveva drammatizzata e quindi effettivamente sti poracci un pochino non è che ci aveva creduto, perché lui l'aveva messo così, e poi era sempre Wells, quindi era sicuramente bravo nel suo lavoro. E questo episodio è iconico perché viene ripreso in tantissime altre così rappresentazioni poi della radio, però in particolare l'ha reso famoso un film di Woody Allen che, se si parla di film alla radio, non può non essere citato, anzi meriterebbe tutta una puntata solo, che è ovviamente Radio Days, e il titolo dice tutto, no? Radio Days del 1987 è uno, a mio parere, uno dei migliori film di Woody Allen di quel periodo sicuramente, ed è anche uno di quelli che gli è costato di più fondamentalmente, perché è una grossa ricostruzione anche in costume, storia, insomma leggevo che era uno dei film in cui lui aveva dovuto anche un po' spendere un po' di più. E si vede, ha una bellissima fotografia, costumi, ricostruzione del periodo, ed è fondamentalmente, come quasi tutti i film di Woody Allen, un po' autobiografico, un po' ispirato alla sua vita, e parla appunto della storia di questa famiglia, che sarebbe la sua famiglia nel suo racconto, o quantomeno ispirata alla sua famiglia, in cui lui cresce in questo sobborgo appunto di una grande città che si pensa essere New York, e cresce attraverso la radio, cioè con la radio. Tutta la sua famiglia ascolta continuamente la radio, e ci sono due livelli nel film. Uno è quello suo personale, del ricordo della famiglia, di tutte le trasmissioni, ed uno è la verità o l'immaginazione, o quello che loro si immagina succedere al di là del capo della radio, cioè tutti quei personaggi famosi del mondo della radio dell'epoca. Si parla della seconda guerra mondiale, quindi dagli anni 30 agli anni 40, metà degli anni 40, e quello che la famiglia si immagina essere la vita nello scintillante mondo del radiofonico, della radiofonia. Chiaramente è comunque una drammatizzazione, un'invenzione, quindi non si sa se effettivamente poi era così, però diciamo molti eventi e molti programmi di cui lui parla nel film erano veramente veramente in atto alla radio. C'è un personaggio che è il personaggio di Mia Farro, che è quella che si fa strada nel mondo della radiofonia, quindi da sconosciuta diventa famosa. Lei chiaramente è un personaggio inventato, ma serve per raccontare la storia. Quindi il film è diviso proprio in due parti, no? La parte al di qua della radio e la parte al di là della radio, cioè quelli che la producono e la fanno e diventano famosi e quelli che la ascoltano, quindi tutte la sua famiglia e tutte le famiglie e come la radio ha effetti sulla vita, sulla sua vita in particolare di bambino che cresce e sulla vita dei suoi familiari. In particolare, appunto, uno degli esempi che fanno, una delle parti più carine del film, è proprio quando sua zia esce così in appuntamento la famosa sera del programma di Orson Welles e viene abbandonata dal tipo con cui è, perché questo si spaventa e la lascia lì in macchina. Spaventato scappa per paura degli alieni. Quindi questo ci fa capire proprio come Woody Allen ci volesse illustrare questo mondo dove la radio era la verità, insomma, era fondamentale. E noi abbiamo l'ascolto, sì, ve lo facciamo sentire in italiano, così sentite proprio cosa succedeva. Hai molto romano. Oh, cosa è stato? Ora non ci crederai, la benzina è finita. Oh, Dio, ma che disdetta, proprio qua sull'estrema punta di Pizzovento. Sembra che siamo bloccati, finché non si alza la nebbia. Oh, beh, una ragazza che fa? Sidney, questo è il nostro primo appuntamento. Tu sai quello che provo per te. Interrompiamo questo programma per trasmettere un comunicato straordinario. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato lo stato di emergenza. Passiamo la linea a Wilson Glen, New Jersey, dove l'atterraggio di centinaia di navi spaziali non identificate è ora ufficialmente confermato come un'invasione della Terra su vasta scala ad opera di marziani. Sì, ciò che stiamo vedendo è orribile. Non credo ai miei occhi. La gente muore, viene calpestata nel suo disperato tentativo di fuga. I capi dell'energia elettrica abbattuti ovunque. Potrebbe mancare da un minuto all'altro l'energia elettrica. Non ho mai visto niente di così. C'è un altro stormo di navi spaziali di alieni che sbucano dal cielo. In contrasto con la sua precedente baldanza, il signor Manulis, preso dal panico, schizzò fuori dalla macchina. Era così spaventato dalla cronaca dell'invasione interplanetaria che fuggì lasciando zia Bea a vedersela con i visci di mostri verdi, che da un momento all'altro lui si aspettava piombassero dal cielo. Lei tornò a casa a piedi, 6 miglia. Quando il signor Manulis telefonò per fissare un altro appuntamento, disse a mia madre di dirgli che non poteva più vedersi con lui. Aveva sposato un marziano. Sì, a volte a una ragazza gli tocca tornare a piedi dall'estrema punta di Pizzovento perché l'hanno mollata lì. E giustamente, come dicevo di Allen, quando il tipo tornò a chiedere della zia, lei gli disse, insomma, di lasciargli detto che aveva sposato un marziano. Incredibile. È bellissimo, veramente uno dei pezzi... Ma tutto questo film è bellissimo, veramente. Io sono praticamente fissata. E appunto fa capire come, no? come fu preso quel momento, come fu vissuto. Ci sono tantissimi altri esempi simili in questo film, proprio perché parla proprio degli anni d'oro della radio, quella in cui proprio l'ascoltavano tutti, e non solo, appunto, per l'informazione. Molto carino perché fa vedere, nel film si vede proprio anche come si facevano gli effetti alla radio, quindi tutti gli effetti sonori, il rumorista, quando registrano questo famoso sceneggiato che al Woody Allen bambino è fissato, no? Il Vendicatore Mascherato si chiama, e tutte le volte lo ascolta, no? E si vede lui, questo tipo che parla alla radio e fa il Vendicatore Mascherato con il rumorista che fa tutti gli effetti, perché nella famiglia di Woody Allen nel racconto ognuno ha il suo programma, il suo programma, il suo personaggio preferito, e quindi anche il suo personaggio, appunto, la mamma ascolta sempre così la cronaca rosa della città di New York fatta da questi due elegantoni, che ne so, il padre ascolta, poi lo vedremo, i programmi sportivi, lui ascolta il Vendicatore Mascherato, la zia ascolta la musica, ascolta i programmi musicali, i radiodrammi. Quindi ecco, poi c'era proprio l'affiliazione, cioè ogni persona aveva il suo programma, un po' come succederà poi con la televisione, no? Cioè, ognuno ha il suo programma preferito e ognuno ascolta ed era poi anche un po' un modo per, così, per sognare questo mondo scintillante della grande città, della grande così questa allure, no, di che loro si immaginano essendo in periferia, essendo così proletari, molto, appunto, molto ben fatto, e una bellissima colonna musica, visto che questo sarebbe il nostro argomento, il nostro programma anche musicale. Sì, lo so, è che qui ci facciamo sempre prendere la mano dal cinema, però bellissima colonna musica, varrebbe la pena veramente sentirla tutta, un po' perché Woody Allen è sempre stato particolarmente attento alle colonne musiche dei suoi film, essendo particolarmente amante e musicista tra l'altro. Sì. E in particolare jazz, ovviamente, ma in generale anche musica degli anni 40-50, ci sono sempre nei suoi film, e in questo in particolare, che ovviamente è tutto su questo, quindi ci andiamo a sentire un pezzo, proprio non una clip dal film, ma proprio la colonna musica, giusto? Sì, è un brano del compositore Glenn Miller, e il brano si chiama In the Mood. Radio Wombat. Thank you. Questo era, vabbè, celeberrimo pezzo di Benny Goodman Orchestra, che si sente in un milione di film, in particolare in questo, anche perché nel film si vede bene come l'orchestra, in particolare quella di Benny Goodman è la più famosa, ma insomma venivano registrate là, cioè andavano live alla registrazione e venivano poi mandate in diretta, quindi c'erano proprio dei programmi di orchestre in diretta, ecco. E, sì, dicevamo che ogni membro della famiglia di Woody Allen in questo film ha il suo programma preferito, e una delle parti più comiche, tutto il film è comico chiaramente, però una delle parti più buffe è quando si parla del padre del piccolo Woody Allen, che è fissato con questo programma sullo sport, che è un programma chiaramente, cioè che dovrebbe essere serio, ma ovviamente è veramente buffo, sembra un po' una gag dei Monty Python, e lo sentirete perché. L'abbiamo trovata in italiano, se non sbaglio, sì, mi sembra. Sì, e quindi la capi prima, è molto buffa. E questa è proprio invece l'esempio di come il programma preferito del padre fosse quello sullo sport. E ce lo sentiamo sempre da Radio Days. Salve tifosi e benvenuti all'edizione, la puntata odierna di Bill Kern e le sue leggende sportive preferite. Ora, nella mia famiglia ognuno aveva il suo programma preferito. Per esempio mio zio Abe era tifosissimo per lo sport e ascoltava sempre Bill Kern. La storia di oggi riguarda un giocatore di baseball. Si chiamava Kirby Kyle, un lanciatore mancino del Tennessee. Giocava per la vecchia St. Louis Cardinals. Lanci veloci, stupende palle ad effetto, e tutti i battitori lo sapevano. Era un ragazzo con un grande avvenire. Ma un giorno andava a caccia, amava la caccia, proprio come suo padre e il padre di suo padre. Inseguendo un coniglio, inciampò e gli partì un colpo. I pallini gli penetrarono nella gamba. Due giorni dopo gliela amputarono. Dissero che non avrebbe mai più giocato. Ma la stagione successiva era in campo. Aveva una gamba sola, ma aveva qualcosa di più importante. Aveva il cuore. L'anno seguente, un altro incidente di caccia gli costò un braccio. Per fortuna, non quello con cui lanciava. Aveva una sola gamba, un solo braccio, ma soprattutto aveva il cuore. L'inverno seguente, inseguendo un'anatra, gli esplose il fucile. Era cieco, ma aveva l'istinto di dove lanciare la palla. Istinto e cuore. L'anno seguente, Kirby Kyle restò sotto le ruote di un camion e morì. La stagione successiva, egli vinse 18 partite nella Serie A dell'Alto dei Cieli. Avete udito da Billy? Va bene, sì, 18 partite la Serie A dell'Alto dei Cieli, ti immagini. Surreale. Sì, era lo zio, non il babbo, ascoltavo il programma, però insomma comunque questo era il programma preferito. E appunto, come vi dicevo, no, le verità della radio, no, ti immagini proprio le cazzate più complete, però se dette alla radio erano vere, erano verità. E nel film ovviamente si vede questo lanciatore prima senza un braccio, sì, poi certo, senza una gamba. Poi non si vede più. Una roba come sì, diceva Mr. Orange alla Monty Python. Sì, la cosa bellina di questo film è che tutte le volte che c'è il racconto si vede proprio effettivamente, quindi no, lui, i personaggi proprio si vedono, gli sketch della radio, ma si vedono al cinema, quindi questa è la cosa più bellina. Ecco, sì, come diceva appunto, il nostro prossimo ascolto è sempre l'ultimo tratto da questo film, come vi dicevo sarebbe da una volta a fare una puntata solo su Radio Days, ed è un pezzo musicale, perché appunto nella famiglia di Woody Allen, in particolare la cugina e la zia amano molto anche così, proprio la musica, la radio, in particolare qui questo pezzo musicale è di Carmen Miranda, la famosa insomma attrice e cantante, e quindi c'è questo gusto molto che porta questo gusto molto esotico, no? E loro si immaginano, e c'è questa scena molto carina in cui loro si vestono tutte come lei, col turbante, la frutta sopra, e ballano in casa tutto questo pezzo molto, molto buffo, insomma, che rende così questa situazione familiare buffa. Ci sarebbero poi altri mille sketch di questo film, appunto magari poi ne riparleremo, perché tra tutti i film è forse quello più rappresentativo, perché riesce a dare una panoramica su tutti i programmi, non solo su uno, no? C'è anche molto bello del 2006 un film di George Clooney che si chiama Good Night and Good Luck, che però fa riferimento a un particolare programma, appunto il programma di Edward R. Murrow, che era seguitissimo in America, Good Night and Good Luck, la sera appunto, che dava era un programma di attualità politica, e poi fu chiuso per la censura, insomma c'è tutta la storia nel film. Anche quello è un film molto bello sulla radio, però si concentra in particolare su una trasmissione, su un periodo, appunto Good Night and Good Luck. Quello di Woody Allen è un po' più ampio raggio, è un po' più così, tratta un po' più chiaramente, è più drammatizzato, è più di fantasia, però tratta un po' tutti gli aspetti della radio, in particolare questi due mondi, quello di là e quello di qua, cioè il pubblico che segue la radio, la vita del pubblico, come la radio la influenza, e l'effettivo lavoro che c'è dietro, quindi negli studios e tutto. Quindi da questo bellissimo film un altro pezzo musicale, giusto? Sì, e chiudiamo con la parentesi Radio Days con Carmen Miranda. Questo è il brano, appunto la clip tratta dal film. Another song that we listened to on the radio was by Carmen Miranda. I can only think of my cousin Ruthie and how much she loved it. Pregoneiro que com sua harmonia traz alegria em salsa americano, hein? Ai, ai, ai, ai, e o que traz no seu tabuleiro vem de praia, oi, oi, vem de praia, ai, ai, em salsa americano, hein? E vem de batapa, e vem de caruru, e vem de mubonzai, vem de umbu, e seu tabuleiro tem de tudo que convém, mas só lhe falta, ai, ai, berenguendez, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. É o canto do pregoneiro que com sua harmonia traz alegria em salsa americano, ei. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Em salsa americano, ei. Ecco, bellissimo pezzo di Carmen Miranda, in cui, come vi dicevo, la famiglia di Woody Allen, c'è cioè proprio questa scena in cui la famiglia Woody Allen improvvisa un balletto con loro tutte vestite come Carmen Miranda, e vabbè. Ok, il mio sogno di fare una trasmissione solo su Radio Days prima o poi si esaudirà e mi lasceranno, chissà, un giorno così esplorare i confini dell'autismo cinematografico. Te la fai da sola? Sì, è chiaro, certo, autismo completo. E invece vorrei farvi solo una citazione di un altro film molto bello sulla radio, si chiama Radio America di Altman, e è un film sempre del 2006 ed è tra l'altro l'ultima opera diretta dal regista, e la struttura del film riprende la narrazione a più voci che lui aveva già utilizzato in un bellissimo film del 1975, che era sempre un film musicale, che si chiamava Nashville, un altro dei miei film preferiti, che non è sulla radio però è sulla scena country appunto dell'epoca. E Radio America è sempre un film nostalgico sulla radio, sempre un film che parla della radio come nostalgia, come ricordo, perché appunto narra la storia di questa emittente radiofonica, infatti il titolo originale è Prairie Home Companion, parla dell'ultima trasmissione che questa emittente radiofonica locale deve fare prima di venire assorbita da un network più grande e quindi di scomparire fondamentalmente. E appunto è una piccola stazione radio del Minnesota che trasmette lo stesso spettacolo di musica e di pubblicità da moltissimi anni, e i protagonisti di questa trasmissione sono ormai anziani e così mantengono un pubblico affezionato e così anche un po' questa capacità di improvvisazione, no? Acquisita negli anni. La radio viene assorbita appunto da una grossa compagnia che liquida tutto il personale, chiude la frequenza e addirittura demolirà il teatro in cui viene fatta, quindi c'è questa bellissima appunto scenografia di questo vecchio teatro da cui loro trasmettono. Quindi questa è la storia di una radio che muore e che però Altman, di cui Altman vuole celebrare la memoria, e, ed è un bellissimo film piuttosto crepuscolare, e anche perché appunto uno dei suoi ultimi film, e con un grandissimo cast, veramente c'è Tommy Lee Jones, Meryl Streep, un sacco di attori, con dei bellissimi pezzi musicali. Però ecco, questo ve lo rimando più alla seconda parte della trasmissione, perché si inserisce più un po' più avanti appunto negli anni, e quindi ne parleremo la prossima volta. Adesso invece, così a scatola chiusa, un pezzo. A scatola chiusa, partiamo per Mr. presentare. Pink sempre in contropiede. Per presentare il prossimo film. Il prossimo film, che vediamo se lo riconoscete. One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. What is your glad flag? So join me home, we'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, you guys gonna have a little bash before you leave? Moose had been looking for you all day. He got worried, thought you were trying to avoid him or something. What is it? What do you got? Oh, great. That's $2,000, man. $2,000! Mr. Jennings gave it to me to give to you. He says he's sorry it's so late, but it's the first scholarship the Moose Lodge has given out. And he says they're all very proud of you back at the Lodge. Dude, why don't you hold it for me for a while? Hey, I don't want it. Take it. It's yours. I'll take it. E questa avrete riconosciuto, Rock Around the Clock, il brano simbolo del rock and roll tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Il film, se non l'avete riconosciuto, problemi vostri, se non l'avete riconosciuto a un certo punto. Non è molto facile, però. American Graffiti di George Lucas, il secondo film di Lucas. Del 1973. Esatto. E un film, diciamo anche questo, nostalgico, sì. Non tanto della radio, ma degli anni 60, un po' autobiografico, della giovinezza appunto del regista. Della gioventù. della gioventù americana, appunto, degli anni quella, 50, a cavallo un po'. Dei primi anni 60. Dalla fine degli anni 50. E qui in questo film la radio, diciamo, non fa da protagonista, però è una specie di sottofondo continuo, un leitmotiv. Questa è la storia comunque di un gruppo di giovani con le macchine di quegli anni. Sì, più che altro del passaggio tra la gioventù e l'età adulta, perché appunto devono tutti decidere cosa fare poi dopo l'estate. Tra una storia d'amore, delle situazioni più divertenti, delle situazioni un po' patetiche. Si incrociano tutte le loro storie, appunto. Sì. Ed è poi il film che darà vita a Happy Days, no? Alla serie, perché è un po'. Sì, è un po'. Ecco, sono quegli anni che darà vita. Un po' perché ci sono dei protagonisti, alcune di loro che saranno poi anche in Happy Days. Come Cameron. che poi anche sì, che diventerà sì. Il regista, il rosso, poi di Happy Days, sì. C'è già qui, come no? Si chiama? Non mi ricordo. Ricky, no? Sì, Ricky, oh. Ecco, Ricky Cunningham. Ricky Cunningham, cioè, già, che era un Howard in realtà, quindi quello che poi sarà il regista. Sì. E appunto questa radio non è il protagonista, ma c'è questa voce di sottofondo che è un disc jockey dell'epoca, che si chiama nella versione italiana Lupo Solitario, ma in inglese era Wolfman Jack. Chiaro, molto meglio ovviamente. Sì, un disc jockey molto famoso che trasmetteva in tutto il Nord America. Quindi era veramente un DJ. E questo comunque si sente dalle radio delle loro automobili ogni tanto che interviene, e fino a una scena diciamo abbastanza cult, quando uno dei protagonisti, mi sembra Dreyfus, sì, Dreyfus è un po' il protagonista, Richard Dreyfus. E per trovare diciamo la sua amata porta un disco alla regia, a questa stazione della radio, e cerca appunto Wolfman Jack, e trova un DJ che gli dice: guarda, lasciami il disco, ti metterò il disco, io lavoro per Wolfman Jack, lui non c'è. E poi dopo invece, andando via, riconosce la voce graffiante che era veramente lui. Sì, riconosce che era lui. E a proposito, vi faccio sentire appunto dalla colonna sonora del film una piccola, diciamo, la piccola clip di questo episodio. Dura un po', però c'è tutto un dialogo, così si sente sì, la voce. Sì, perché lui porta il disco, perché lui vede ai tempi, non avendo capito altro che Facebook, lui vede questa tipa in una macchina, in un'altra macchina, e ci parla un po', non sa chi è, e quindi per ritrovarla, anche se la città è piccola, però lui la vuole ritrovare, no? C'è questo l'azione si svolge tutta più o meno in una notte, no? Tutta durante la notte fino alla mattina, e lui cerca di trovare questa tipa, per questo va alla radio, se non mi sbaglio, porta il disco per dire alla tipa: guarda, se senti questo disco, per riconoscerla, sì. Insomma, per ritrovare la ragazza, quando senti questo disco, no? Sperando che lei chiami la radio. È buffo, insomma. E anche voi, se che state ascoltando, se volete cercare qualcuno, non usate Facebook. No, non usate Facebook. Vabbè, potete venire qui e cerchiamo la persona. Scusa, molto più figo se venite qui, appunto, dite chi state cercando. Che diamine. E allora niente, andiamo con questa clip appunto tratta dal film American Graffiti. Popsicle, the icebox just broke down and they're melting all over the place. You want one? No, thanks. Listen, have a popsicle. Are you the Wolfman? No, man, I'm not the Wolfman. Wait a minute. Who's this on the Wolfman telephone? Diane. How you doing, Diane? All right. it's the Wolf Man. You love me? He's on tape. The man is on tape. Say you love me. Well. Yeah. Where is he now? I mean, where does he work? Where? The Wolf Man is everywhere. Where? Well, I gotta give him this note. Shit. Can I wig on your Wolf Man? Here, let me see the note. Well, that's just a dedication, man. What I can do is I relay it. It'll be on tomorrow or Tuesday. No. See, this is very important. You see, I may be leaving town tomorrow, and it's very important that I... Damn it, that I reach this girl right now. You don't know whether you're gonna leave town or not? Well, I'm supposed to go to college back east tomorrow, and I don't know if I'm gonna go. I don't know. Wait a minute. Have a popsicle. No. Huh? No, thanks. Sit down a minute. It's early in the morning. Damn. I can't talk for the Wolf Man, but I can tell you one thing. If the Wolf Man was here, he'd say, get your ass in gear. The Wolf Man comes in here occasionally, bringing tapes, you know, to check up on me and whatnot. Yeah. And the places he talks about that he's been, the things he's seen. There's a great, big, beautiful world out there. And here I sit, sucking on popsicles. Why don't you leave? I'm not a young man anymore. And the Wolfman gave me my start in the business, and I like it. I tell you what, if I can possibly do it tonight, I'll try to relay this dedication in and get it on the air for you later on. That would be terrific. Really. Thanks. Yes, ma'am. Hey, it's been a pleasure. Thanks a lot. Really. I appreciate it. Sticky little mothers, ain't they? They really... Six or seven of them, right? I know. I got a whole refrigerator full. Thanks a lot. See you later. Appreciate it. Ebbene, qui alla fine Richard Dreyfuss riconosce la voce appunto, un po' gracchiante, un po' stridula, un po' graffiante di Wolfman Jack. E una curiosità, che questo Wolfman Jack ha partecipato anche a Radio Caroline, la famosa radio, la radio pirata che trasmetteva nelle acque internazionali al largo dell'Inghilterra. Esatto, da cui si è ispirato il film Love Radio Rock, in realtà in inglese Rocking the Boat. Ne parleremo poi nella prossima puntata. Però ne parleremo puntata. Perché c'è tutta una parte sulle radio pirata. In un periodo non potevano più trasmettere nemmeno dalle acque, diciamo, inglesi, e si trasferirono verso le coste statunitensi. E di queste registrazioni di Wolfman Jack, che tantissime non vennero mandate in onda, esistono ancora queste registrazioni che vengono, insomma, che hanno un circuito ovviamente un po' più ristretto da collezionisti. Campioni proprio delle registrazioni originali. Può darsi che qualcosa si può trovare anche online. Mi sembra di qualcosa ho trovato. Il vecchio Wolfman. Comunque, parlando sempre di American Graffiti, ha avuto anche un grande successo appunto per la colonna musica, perché sì. Ci sono, diciamo, dal soundtrack 41 brani musicali, tutti ovviamente degli anni, dagli anni 50, dagli anni dal 58 ai primi anni 60. Per citarne solo alcuno, Rock Around the Clock, come abbiamo sentito prima, Runaway di Del Shannon, e Buddy Holly. Chiaro. I Beach Boys, ci saranno ovviamente. In 3-4 versioni, sì. Chuck Berry, i Platters, i Regans, che non sono molto conosciuti, però sono gli autori del brano popolarissimo Barbra Ann, che poi è stato portato al successo dai Beach Boys. Esatto. E Chuck Berry con Johnny B. Goode, ora... Vi farò sentire, facciamo una piccola carrellata Sì, questa negli è, anni, negli è anni uno, 60. Una delle colonne musiche più famose, proprio perché raccoglie tutti i pezzi iconici, celeberrimi, insieme ad altri film, anche un Mercoledì dal Leone, dicevamo prima, anche se non è un film sulla radio, sì. Però essendo un film sulla storia del surf, racchiude anche, diciamo, ci sono delle colonne musiche di film che sono un po' contenitori e che racchiudono tutti i più famosi pezzi rock and roll, insomma, tra la fine degli anni 50 e gli anni 60. Questo è proprio un film fondamentalmente costruito sulla musica, sì, e sì, quindi sì. La musica ha proprio un'importanza fondamentale anche nella narrazione, non è soltanto appunto esterna, grazie alla voce del DJ, e soprattutto perché è un altro film che ci fa capire quanto la radio fosse fondamentale, importante. Fosse importante come mezzo proprio di collegamento, sì. Anche tra le persone. E no? trasmetteva tutta la notte, esatto. Ma anche nelle sue trasmissioni originali. E esatto. Per un periodo trasmetteva dal confine, si venivano chiamate proprio le radio di frontiera, trasmetteva dal confine con il Messico, ecco. e aveva un trasmettitore, mi sembra, da 25.000 watt, oh. Che era tipo 10 volte oltre la soglia concessa dagli Stati Uniti, e quindi durante la notte trasmetteva in AM, quindi in AM le frequenze vanno di notte vanno più lontane, si sentono di più, sì. E veniva ascoltato fino a alla Russia, anche, cioè alla Russia, all'Unione Sovietica e l'Europa. Arrivava anche oltreoceano. Diciamo, sì, arrivava anche in Europa. Comunque, il prossimo brano è non molto popolare, ma un brano molto, molto bello e interessante. È stato poi riprodotto anche da Elvis, per dirvi. E in quell'anno è stato nel 1961 al numero uno della Billboard Hot. La classifica Billboard. Sì. Mm. È stato per un anno al primo posto. E comunque è considerato uno dei migliori 500 brani della musica. Comunque, il brano è Runaway. L'autore è Del Shannon, del 1961. E ce l'ascoltiamo su Radio Wombat. As I walk along, I wonder what went wrong with our love, a love that was so strong. And as I still walk on, I think of things we've done together while our hearts were young. I'm a walking in the rain, tears are falling and I feel the pain, wishing you were here by me to end this misery. And I wonder why be coming along. We're loading up our woody with the now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. Vabbè, questo, direi che forse pezzi, ha ragione Big Good. Questi pezzi non hanno bisogno di presentazione, ovviamente, infatti ve li abbiamo messi tutti insieme perché no. E vabbè, comunque Johnny B. Goode, chiaramente noi tutti figli degli anni 80, almeno noi, ce lo ricordiamo soprattutto legato a un film in particolare, che è Ritorno al Futuro, chiaramente, perché come tutti voi ben sapete, se avete una DeLorean potete tornare negli anni, alla fine degli anni 50, potete far sentire al cugino di Jack Berry il suo pezzo, perché nel film, non so se ve lo ricordate, ma Michael J. Fox al ballo della scuola dei genitori suona Johnny B. Goode, che però il pezzo non era ancora uscito secondo la linea temporale del film, e quindi il cugino di Chuck Berry al telefono sente questo, cioè chiama Chuck Berry al telefono e dice: ehi Chuck, c'è uno qui, fa un pezzo incredibile, lo devi venire a sentire. È il pezzo di Chuck Berry, il paradosso temporale del... ora, mi sta uscendo il sangue da un orecchio ora. Esatto, tutte le volte che c'è un paradosso temporale, esatto, e quindi così questo rimane per noi amanti di Ritorno al Futuro, il pezzo, il pezzone stracult Johnny B. Goode. E qui, cioè, ci parte una dedica obbligata al nostro Ivan, che è un fan accanito del film. Questa era per te. Un altro brevissimo inciso: in tutti questi film il passaggio, cioè la radio è rappresentata, è un bellissimo, tutti questi film utilizzano proprio il passaggio della tecnica, come si diceva nella prima puntata, dal livello interno a livello esterno, si dice, cioè la radio comincia, no? Il suono della radio, la radio viene proprio accesa, si sente i pezzi come se fossero nella scena della drammaturgia, quindi interno, e poi i pezzi diventano la colonna musica, esterna, la scena cambia però il pezzo rimane. Quindi tutti questi film usano questo espediente, appunto il passaggio dal livello interno a livello esterno, si dice nello studio della drammaturgia della musica per film. E ovviamente ci sarebbe tantissimo da dire ancora, però vi rimandiamo alla prossima puntata in cui ricordiamo tra 15 giorni tratteremo altri film, sempre radio nei film e film alla radio. Però non possiamo così, ne abbiamo saltati tantissimi in realtà, ma non possiamo concludere senza citare uno dei film più famosi in generale, ma più famosi per questo argomento, che è Good Morning Vietnam, un film dell'87 di Barry Levinson, in cui Robin Williams, così lo scomparso ormai Robin Williams, fa da ammattatore in questo, che è un film proprio dedicato alla figura di un cronista realmente esistito, di un, ora si chiama DJ, ma insomma era un cronista radiofonico militare, appunto, vero, esistito realmente, si chiamava Adrian Cronauer, e Robin Williams interpreta appunto Adrian Cronauer, che era a distanza nel Vietnam durante il conflitto, appunto del tragico conflitto, e così cerca di, tutti se lo ricorderanno, nella sua permanenza a Saigon gli viene affidata la conduzione della radio, che gli regala moltissima popolarità, ma anche non pochi detrattori tra i suoi superiori. Qui Robin Williams chiaramente riesce a esprimersi al meglio nella sua capacità di attore comico, soprattutto di umorista, di imitatore, perché fa tutte le voci, cambia continuamente regista come se fossero più personaggi, e così lui era bravissimo. In questo è il film in cui viene celebrata proprio la sua capacità di uso della voce, perché Robin Williams era proprio un grandissimo, era proprio dotato da questo punto di vista, un po' come lo era stato Belushi, senza fare paragoni, però con l'inimitabile, però assomigliava un po', non a caso erano amici. Quindi di Good Morning Vietnam abbiamo il trailer. Non abbiamo trovato la versione in italiano. No, non abbiamo trovato la versione italiana del trailer, però abbiamo trovato una versione in cui si sente la voce originale di Robbie Williams fare appunto tante piccole. Anche questa colonna musica, chiaramente molto bella, molto importante, con tutti i pezzi dell'epoca ambientati appunto durante il conflitto nel Vietnam. E quindi, con questo vi lasciamo, vi diamo l'appuntamento alla prossima. Tra 2 settimane da Mr. Pink, Mr. Orange e Mr. Blonde, che in absenza tornerà la prossima puntata. E vi auguriamo una bella serata e vi lasciamo con questo bellissimo Wombat. Good Morning Wombat. Ciao a tutti. Cosa? Lo so. No. E abbiamo avuto un piccolo problema. Che ora non poteva andare bene fino alla fine, ovviamente. Quindi ci doveva in qualche modo regalare. Che risolveremo gioie a breve. Comunque, vi ricordiamo che Coming Song va in onda un martedì sì e uno no. Su queste stesse frequenze della Radio Wombat. Più o meno. Più o meno. E quindi alla prossima puntata. Vi aspettiamo. Picture a man going on a journey beyond sight and sound. He's entered the demilitarized zone. Good morning, Vietnam! Time to rocket from the Delta to the DMZ. It's 0600. What's the O stand for? Oh, my God. It's Mr. Leo. You know, this whole camouflage thing for me doesn't work very well. Why is that? Well, because you go in the jungle, I can't see you. If you're going to fight, clash. That is not what we program here. Surprise, surprise, surprise. You are not funny. You're not going to last long here. Boy, do I have a surprise for you. Good morning, Vietnam. In 1965, Adrian Kronauer was sent to do the impossible. I was sent here on very strict orders from a colonel. What the hell's going on here? His mission? To build morale. Where are you from? From Cleveland, man. Obviously, Vietnam's not that much of a change for you. His strategy? Keep them laughing. If someone is not telling the truth, you say that they are full of... His problem? Staying out of trouble. You want to stick to playing normal modes of music. Jim Nabors, Mantovani. Percy Faith. Percy Faith, good! Yeah! He did a very off-color parody of former VP Nixon. Seeing as how the VP is such a VIP, shouldn't we keep the PC on the QT? Because if it leaks to the VC, you can end up in MIA, and then we'd all be put on KP. Sir, the man is a walking keg of dynamite. He's read unofficial news. Ethel Merman jams Russian radar. Hello, I've got a feeling. What's he going to be like in 6 months? Big dogs landing on my face. What's he going to be like when he's 10 times as popular? What's the weather like out there? It's hot, damn hot, hot and wet. That's nice if you're with a lady, but it ain't no good if you're in the jungle. Touchstone Pictures presents Robin Williams as Airman Adrian Kronauer, the wrong person. Very attractive man, Eversole. Don't think I haven't noticed. In the wrong place. This will not look good on a resume! At the right time. Good morning, Vietnam! What a country. Heat, humidity, terrorism. Still, it's better than New York in the summertime.